Palla Spicchi con Carlo Genta. Ovviamente loro rimangono favoriti, però per noi era importante giocare con i valori che abbiamo messo fin qui. È difficile, è stata una delle notti, dei giorni più difficili della mia carriera, perché questo era il contesto peggiore per ripartire dopo la sconfitta peggiore. E bisognava da un lato agire sulle emozioni, agire in modo che le energie di reazione fossero incanalate nel giocare una pallacanestro di grande qualità. E quindi era molto difficile, perché se tu vuoi reagire, reagisci e hai una reazione, non sei in grado di controllare e dominare una partita contro una squadra sulla carta più forte di te, più esperta, più tutto in un campo di questo genere. E siamo riusciti a far questo. Buon pomeriggio a tutti, tifosi dell'Olimpia Kos, che avete sentito cantano, canteranno, probabilmente un po' di meno perché la voce gliela spenta l'uomo che avete sentito parlare, cioè Simone Pianigiani e la sua Siena. Qui con me oggi, per questa pazza settimana, bellissima settimana europea, due uomini che hanno costruito un'impresa storica nella Coppa dei Campioni in una chiave ben diversa, però da meno 31 a più 34 nel giro di un paio di settimane, questa se la ricordano tutti, Milano contro Salonicco. Innanzitutto coach Dan Peterson, ciao coach. Ciao ragazzi, amici sportivi. Era una settimana, sette giorni solamente. Da giovedì a giovedì. Comunque complimenti a Siena, grande impresa, ha solamente due giorni, altro che una settimana, di rovesciare una situazione che non era veramente bella. Una giocata, una partita maiuscola ieri sera. Magari qualcuno dice che Olympiacos in versione soft, però prima deve vincere la partita, poi puoi dire che erano non dure come la sera prima. Sicuro. E vicino a te, a battere, a costruire quella partita leggendaria, c'era ovviamente Franco Casalini. Ciao Frank. Sì, ero lì, passavo lì per caso. Sì, è chiaro che è difficile fare un parallelo tra le due situazioni, è solo una suggestione. No, difatti, intanto la più grossa differenza, l'ha detto già Dan, che erano sette giorni anziché due. E poi la più grossa differenza è che là c'era almeno 31, perché se vinci ma di 30 sei fuori, sì. Invece qua bastava vincere di uno, quindi difendi quell'impresa storica, naturalmente. Ma sai, intanto anche perché era venuta a ottobre le squadre non sono ancora al meglio, Invece no, però non voglio far classifica, quella di ieri è superba, adesso va completata con altre due vittorie, il che non sarà facile. Non sarà facile per niente, tra l'altro tutte le serie sull'1-1. Kos, però tu hai detto una cosa che condivido, hai parlato di Olympiacos soft, ed è così, approccio sbagliato secondo me quello dell'Olympiacos, perché era fondamentale il primo quarto, tu con Siena che immagino sia entrata in campo col mondo sulle spalle, devi provare a buttarla subito fuori dalla partita o no, mi sbaglio? Ah, no, assolutamente così, loro hanno lasciato Siena prendere fiducia e coraggio proprio nel primo quarto, diversamente da loro cugini di Panathinaikos che Sport Italia trasmesso anche ieri sera. Erano delle piovre lì in difesa, il terzo, quarto, quarto, e se Diamantidis non è il miglior giocatore d'Europa, vorrei sapere chi lo è. Ma Dan, scusa, ti faccio una domanda. Sì. Ci sei? Sei pronto? Sì, c'hai la cuffia? Vai. Ascolta, ma è vero o non è vero che è meglio vincere di uno che di 50 in gara 1? Probabilmente sì. Era meglio per Olympiacos, perché anche Ivkovic, secondo me, cercava di diminuire il danno, perché non voleva un eccesso di fiducia dalla parte dei suoi, il che è successo, proprio il suo peggior incubo veniva realizzato proprio ieri sera, è venuto realizzato ieri sera. Ma io credo che sia impossibile riuscire a dare il 100% dopo che hai stravinto gara 1, per forza sei un pochino più soft, per forza, inevitabile. Io ho detto sempre Carlo, a Franco, a Tony Capellari, la mia idea della vittoria ideale era più 9, non 10 che sono doppie cifre, ma non più uno perché non volevano il farto, hai capito? Cioè, volevo vincere per 9 punti, questo per me era la vittoria ideale. Beh, con questo non togliamo nulla alla grande impresa di Siena, grande, se non sei squadra di alto lignaggio, anche se quelli là sono soft, non vince il Pireo. No. Senti, coach, com'è andata la tua settimana? Sei al mare? Cosa state facendo, visto che non giocate più? Ieri abbiamo fatto un amichevole contro il Casal Pusterlengo lì, ma con metà squadra abbiamo vinto di 7 punti, ma cioè, è stato importante per nostri riprendere un po' di ritmo di partita, non solamente di allenamento, perché domenica non giochiamo. Dovevamo giocare qui contro Siena, però è stato concesso a loro uno stop lì, rimandata la partita a 14 aprile per permettere alla squadra italiana a concentrarsi in Eurolega, che è anche giusto fare. Certo. È un problema per te questo stop così lungo? Perché è venuto dopo 2 settimane prima di Montegranaro, in cui c'era l'All-Star Game, quindi in uno spazio di 28 giorni giochiamo una sola partita con Montegranaro, quindi dobbiamo adeguarci a questo qui. Infatti io ho fatto amichevole ieri, cercherò di fare un'altra, che Franco sa che raramente facevo un amichevole, l'idea di andare trasferta a fare uno non abbiamo mai fatto, sei lei sempre odiate. Sì, esatto. Anzi, posso ricordarti una cosa brutta, Dan? Sì. Una delle poche amichevoli che abbiamo fatto era a Rimini. Vigevano. No, aspetta, a parte Vigevano che mi ha spaccato la macchina, ma ne abbiamo fatta una a Rimini e il giorno dopo ne abbiamo presi solo 45 a Pesaro, ti ricordi o no? Esatto. Quindi brutte storie, però io devo tenere la squadra in tiro, se possiamo dire così, cioè sharp, come dice l'americano, proprio al punto, come si dice proprio in questi giorni qua, e non sarà facile, quindi ne abbiamo fatto uno ieri, uno la settimana che viene e speriamo in bene. Senti Franco, Milano come la vedi? La vedo attraverso gli occhi del mio fratellone Dan, perché è lui che deve risolvere alcuni problemi e credo che sia sulla via di farlo. La strada non è facile, perché soprattutto perché c'è una grande squadra, lasciamo stare Siena, ma c'è un'altra grande squadra rivale che è Cantù, quindi a Milano e a Dan si chiede un'impresa, perché arrivare secondi sarà essenziale per tanti motivi, ma non sarà assolutamente facile, il tempo c'è per farlo, oltre al fatto che sono praticamente pari, o forse sono pari, adesso c'ho una piccola amnesia, sì. Mi pare che siano 30 tutti e due, no? Ecco, quindi è una volata finale, il bello dello sport è che le volate non sa chi le vince. Sì, sarà determinante la partita del 14 di aprile contro Siena, no coach? Perché quella... Poi abbiamo anche Cantù in casa, quindi dobbiamo andare a Varese, abbiamo la Virtus Bologna in casa, poi Avellino per prima, proprio il 20, non questo il 27, non questa domenica 20, ma quell'altro, e Avellino è una squadra in grande crescita, come sappiamo ci hanno battuto anche la Coppa Italia, quindi abbiamo diversi lavori importanti da fare, ma io voglio prendere uno alla volta come sempre. Grazie coach, buon lavoro. Ciao Franco. Ciao Danielu, ciao. Grazie coach Peterson. 800 24 00 24 per intervenire, messaggi ne ho già tanti, 349 238 6666. Mi tengo Franco Casalini legato alla sedia naturalmente. Poi mi spieghi perché ti ha rotto la macchina a Vigevano. Ah no, niente, mi sono fermato a un semaforo, mi è arrivata addosso la macchina comprata il giorno prima, esatto. Sì, è sempre così. Esatto, proprio il giorno prima, e quando dopo 2 giorni mi sono ripresentato in concessionaria a comprarne un'altra, il venditore era, oltre che in sollucero, era anche abbastanza sorpreso, devo dire. Ci fermiamo, traffico. Dunque, torniamo qui vicino a me, Franco Casalini. C'è chi scrive, un teramano, un abruzzese triste, così si definisce Camillo, che da quando Teramo sprofonda mi sento meno parte della sua trasmissione. Ma no, ma perché? Teramo, vediamo come va a finire, e comunque non ci dimenticheremo del basket abruzzese, naturalmente. Poi c'è chi scrive, ma siete incredibili, quando si parla di Siena c'è sempre un però. Ma ve lo ricordate come, che difficoltà ha superato Siena per arrivare dove è senza playmaker titolare? Io, a me però è sfuggito, cioè non mi sembra aver messo dei dubbi. L'appassionato pensa alla sua squadra, giustamente, ed è critico. Calme gesso. Sì, sì, c'è, ma sono figure, parlando di altissima civiltà sportiva. Ma fa parte della dialettica. Invece interessante la questione, ieri grandissima partita di Marko Jaric, che ha spezzato gli equilibri e ha dato grande personalità alla squadra. Ho rivisto Jaric comandare la squadra, cosa che prima non poteva fare essendo un ex giocatore riattivato da, per l'occasione da, da Siena. Beh, che ci volesse tempo perché per rivedere il vero Jaric, e non è ancora il vero Jaric, era abbastanza prevedibile. E che Siena non potesse prescindere da due giocatori come lui e Ayrton per fare dei, delle grandi partite, lo era altrettanto. Quindi mi sembra che siano buoni sintomi anche per le prossime gare. Sì, c'è da dire che Siena ha cambiato pelle, no? Con, senza McCaleb, che ieri ha giocato soltanto due minuti, chiaramente non è pronto, ha cambiato totalmente i suoi equilibri. Mi viene in mente il Milan di, con e senza Ibrahimovic. Con Ibrahimovic è un conto, senza Ibrahimovic deve cambiare non solo un giocatore che guida l'attacco, ma l'intero modo di giocare, l'intero assetto. Adesso che fa Siena? Ricambia un'altra volta con il ritorno di McCaleb? Beh, sai, comunque è un ritorno, a parte che è un ritorno molto meno traumatico, perché è un giocatore che ha fatto i primi quattro mesi, e comunque sarà un ritorno graduale, perché non potrà certo essere quel McCaleb delle ultime partite. Arriverà ad esserlo, ma credo fra un mese almeno. Quindi sarà una cosa molto meno, diciamo così, d'impatto, e quindi Siena continuerà con questa filosofia dettata da un giocatore molto diverso, ma altrettanto bravo e certamente intelligente come Zizis. Io voglio sentire un po' di commenti su questa settimana europea, su questa andata e ritorno dall'inferno della Montepaschi Siena. Mario Boni, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno Franco. Ciao Mario. Marione, un commento su Siena, da andata e ritorno dall'inferno, dicevo prima, non so se vuoi trovare un'altra definizione, però mi sembra così. Ho anche l'impressione che gli equilibri paradossalmente a questo livello siano così sottili e così elevati che può succedere qualunque cosa. Se si spezzano gli equilibri puoi anche perdere di 50 e due giorni dopo vincere. Ma guarda, sono rimasto anch'io basito dopo la prima partita, quando Siena era sotto di 50 punti. Non poteva essere vero, perché insomma Siena si è abituato a essere una squadra tosta che sa vincere fuori casa. E infatti ieri ci ha dimostrato che ha saputo rimettere in piedi una situazione difficile. Credo che anche l'Olympiakos abbia approcciato la partita non nella giusta maniera, convinti magari di fare un solo boccone. E poi un'altra considerazione, credo che il fattore campo a questi livelli, con questi giocatori, conti il giusto. Anche ho visto per esempio un'altra partita bellissima ieri è stata quella tra Barcellona e Panathinaikos, e anche lì il fattore campo, nonostante fosse una bolgia, però i giocatori esperti, quelli con talento, sanno giocare partite in tutte le condizioni ambientali. Tutte le serie sull'1-1, forse non è mai successo nei playoff di Eurolega. Tutte quelle che hanno perso gara 1, hanno vinto ieri in trasferta, hanno ribaltato il fattore campo. Voglio chiedervi a te Mario e a Franco Casalini, come la mettiamo adesso? Cioè, io vedo ad esempio il Maccabi che ha vinto a Vitoria, che insomma vincere a Tel Aviv devi essere una grande squadra. È chiaro che è difficile vincerne due in casa. Cosa succede di qui alla fine della prossima settimana? Mario? Io, guarda, quello che mi sento di dire è che sai, è difficile, però credo che molte partite andranno alla quinta. Quella più affascinante, non ti nascondo, che è quella tra Panathinaikos e Barcellona, sicuro. Perché adesso voglio vedere l'ambiente che troverà il Barcellona sul campo di Atene del Panathinaikos. Anche le altre sono belle. Credo che Siena abbia difficoltà a vincere due adesso. Battere tre volte consecutivamente l'Olympiakos è un'impresa ardua. Consideriamo che mancava anche un grande giocatore all'Olympiakos, quale Teodosic, casomai ce ne fosse bisogno, tanto l'Olympiakos ne ha tantissimi. Insomma, io direi che questi quarti di finale sono bellissimi proprio per l'incertezza del risultato, no? Perché tu ricordavi il Maccabi ha vinto l'ultimo secondo, ecco, voglio dire, tutte partite molto belle. Grazie Mario! A voi, grazie a te. Ciao, grazie. Ciao Mario. Come le vedi tu invece queste serie? Beh, chiaramente quella dell'Olympiakos, ha ragione Mario Boni, al di là del nostro tifo è quella più affascinante, no? Con Olympiakos Siena? No, scusami, quella del Panathinaikos contro il Barcellona, che a questo punto paradossalmente potrebbe non giocare le Final Four in casa, dovesse perdere due volte ad Atene. Sì, però se vale quello che abbiamo appena detto, cioè che non vale il fattore campo, allora non vale il fattore campo, se no siamo incoerenti. Sì. E quindi anche il Barcellona può vincerla. Io ormai mi sono ripromesso e arreso all'impronosticabilità. No, no, ma io possiamo pensare magari a gara 3, ma pensare già alla 4 e addirittura alla 5. Sì, sì, possiamo farlo, così come possiamo pensare se esistono i dischi volanti, d'accordo, parliamo di pure, ma sempre di fantascienza parliamo, quindi parliamo di un'eventuale gara di una sicura gara 3, nella quale però ci sono altri componenti, perché ci sono 5 giorni, qualcuno giocherà una partita di campionato, ci sarà un viaggio, ci saranno tanti fattori per i quali giustamente cerchiamo di prevedere, ma soprattutto ci sediamo davanti alla televisione o nelle nostre poltroncine allo stadio e ci divertiremo come dei matti. Prima di passare la palla agli ascoltatori, i primi sono Luca da Roma e Nicola da Bari. Quanto conta l'allenatore in questa pazzia che sono? Io credo nei playoff l'allenatore conta, direi, il giusto, per non dire poco. Perché uno, sono tutti dello stesso livello. Mi stai dicendo che Obradovic è più bravo di Pasquale? È di un'inezia, se è di un'inezia, comunque non è lui che mette la palla dentro. Voglio dire, se non c'è Diamantidis ieri, può allenare anche Einstein e non vinci. Così come se non c'è Perkins o Blue, che fanno dei canestri mai visti, o Sato, hai voglia che Blatt è bravissimo, ma è molto più bravo di Ivanovic, eccetera. Quindi a quei livelli lì i playoff, come è vecchia legge, li vincono e li perdono i giocatori. Non per questo mi tolgo dalla responsabilità delle cose, però secondo te Pianigiani è più bravo di martedì scorso? E ci sono 68 punti di differenza. Pianigiani è stato bravissimo a tenerli lì. Ma poi la risposta la devono dare i giocatori, perché sono loro che fanno le partite. Perché puoi cambiare qualcosa in spazi così ridotti e a questi livelli. Sì, esatto. Ma guarda, come dico sempre, l'allenatore deve solo fare una cosa: cercare di non far perdere la squadra. Ovvero sia non fare il fenomeno a inventarsi i quintetti o inventarsi le magate, che regolarmente è come la famosa freccia. Basta fare in modo che i giocatori abbiano tutta la possibilità di giocare come sanno. Questa è la bravura, e in questo le cose lo fa tutto. In corsa gli togli sicurezza, giusto? Sì, sì, certo. Poi certo, poi c'è l'Obradovic che ti inventa la quattro zone una uomo, però l'ha fatta anche in gara 1 e ha perso. E allora, come vedi, ci sono tanti comunque sia, alla fine sono quei cinque polpastrelli lì che contano. Se la buttano dentro, ha vinto. Luca, buongiorno. Buongiorno. Dica. Che bello sentire parlare insieme Dan Peterson e Coach Casalini, sì. Quanti bei ricordi. Cioè, grazie. A proposito, vorrei approfittare della presenza di Coach Franco per chiedere un suo parere su degli aspetti tecnici dell'Olimpia di Milano di oggi, che per me, che probabilmente al loro tempo loro non dovettero affrontare, ma che per me oggi potrebbero essere un problema, perché vedendo le partite contro Roma e contro Montegranaro, il primo è i troppi cambi. Ma non tanto come numero, ma come frequenza. Ho visto soprattutto a Roma vedere in campo Mordente e Mancinelli a volte solo per pochi secondi in campo, l'impressione che questo destabilizzi più che faccia riposare a volte i giocatori. Ma penso che il coach, insomma, abbia anche detto probabilmente che troppi cambi forse per lui sono una cosa che non era abituato a gestire. E la seconda è come, insomma, la gestione di tre pivot, veramente tre titolari. Voi ai vostri tempi avevate Meneghin che faceva i suoi 40 minuti, qui abbiamo tre pivot con caratteristiche molto diverse da loro, ma che devono giocare tutte e tre per essere valorizzati. Devono dividersi i minuti. Un'ultima cosa che invece non c'entra con l'Olimpia ma riguarda Siena è alzi la mano chi tra gli amanti del basket come noi non ha pensato che in gara 1, quando la gara ormai era immediatamente persa, Coach Pianigiani ha pensato di perderla il più possibile proprio per la guardia dell'Olympiacos in gara 2. Ma questa mi sembra un po' troppo sofisticata. L'ultima credo che sia una suggestiva ipotesi. che però non credo che ci sia, che sia possibile, che sia praticabile, anche perché l'allenatore, come dicevo prima, è lì, ma non è che può decidere più di tanto. Poi se no questi qui non la buttavano dentro neanche nella famosa vasca da bagno. Sull'Olimpia che invece dici? Sulle due cose che hai detto sull'Olimpia sono assolutamente d'accordo, sono due annotazioni molto precise, oculate e intelligenti. Perché è un po' invalso l'uso adesso di avere dei roster giganteschi più per fare dei begli allenamenti per poi avere dei problemi in partita, devo dire la verità. E avere così tanta gente effettivamente non dà ritmo a nessuno. Non credo che il fatto che, come certamente è vero, il basket più atletico di adesso richieda per forza che nessuno faccia più di 20-25 minuti a partita, anche perché sono migliori atleti di quanto non fosse ai tempi nostri, quindi sarebbe, secondo me giocherebbero meglio le squadre con un roster un pochino più, oltre a risparmiare non poco, sì. Ma giocherebbero meglio, perché un giocatore che si gioca i suoi 30-35 minuti sa che deve stare in campo, è più sereno, non sa che non, sì, può sbagliare, ma resta in campo, è tutto diverso. E invece ai centri è ancora più evidente, perché più o meno è ristretto a un settore, ma è lo stesso discorso. Perché uno o l'altro che vanno in campo e non fanno neanche il tempo, poi anche perché stiamo parlando di bombardoni di 2,10 metri e di 150 kg, quindi non è che vanno in campo come dei topolini subito pronti, eh. E allora hanno bisogno del tempo e spesso non lo trovano. Ci fermiamo un attimo per la borsa, poi torniamo con Nicola. Palla spicchi. Torniamo con Nicola e sempre con Franco Casalini qui con me. Buongiorno Nicola. Buongiorno a voi. Dica. Buongiorno a voi. Dunque, io volevo semplicemente allargare un attimino e anche scendere come livello, come sì, argomenti sui quali discutere. Casalini, che come tutti quanti voi mastica pallacanestro da una vita, sì, ha visto tanti club perdersi, cito qualcuno così a lume di naso, Viola Reggio Calabria, cito il Livorno che aveva fatto bancarotta, così la Virtus, così come tante altre società. Immaginiamo un corrispettivo con il calcio, come se Milan, Inter, Juve dovessero sparire all'improvviso, sì, e depauperare praticamente il nostro patrimonio cestistico o calcistico. Allora, questo avviene nella pallacanestro, questa è la prima domanda, è il motivo. Cioè, dal punto di vista economico, i roster sempre più numerosi, sempre farciti di stranieri che richiedono sempre più danari a fronte di scarsissimi ingressi e scarsissimi proventi che derivano proprio dal pubblico, data la capienza. Basta vedere una partita di un nostro campionato al di là di Siena, è povera di spettatori, povera di interesse anche sui mass media, perché poi quando finisce il campionato sui giornali non si legge più nulla se non un trafiletto di basket. E poi questo è il primo quesito, quindi cosa fare per riuscire a invertire la rotta, che al momento non sembra essere invertita. Sì. E l'altro aspetto, la cosa vergognosa che la federazione ha inventato con i parametri, non so se siete a conoscenza, Casalini sicuramente sì, con i parametri che le società sportive devono, di pallacanestro chiaramente, devono erogare a tutto vantaggio, in particolare per la federazione, per tesserare uno svincolato. Questa cosa vergognosa l'ha ideata soltanto la federazione pallacanestro, le altre federazioni non hanno nei loro regolamenti un'ignominia come questa. Basta pensare che una società di serie B, per tesserare uno svincolato, un 21enne, deve versare 7.000 euro. E questo per ogni anno di tesseramento di questo giovane talento. Sì. Va da sé che i ragazzi, se non sono letteralmente all'altezza di essere nel quintetto, si vedono impossibilitati a giocare in quel campionato specifico, pur avendone le possibilità da sesto, settimo, da ottavo. Una società che deve pensare per bene al calcio. Ma ci sono, io penso che lei parli da addetto ai lavori, così a occhi e croce, ci sono molte distorsioni, si è parlato molto di riforma dei campionati, insomma è chiaro che non è il mondo ideale, non è il mondo perfetto, al di là di queste cose. È altrettanto evidente che fare pallacanestro costa moltissimo. Sull'assenza di pubblico nei nostri campi, non lo so, i dati dicono che che comunque il pubblico è in ascesa, ed è altrettanto vero che tenere comunque un pubblico costante o in leggera ascesa in un campionato in cui c'è una forza egemone ormai da così tante stagioni mi sembra già un buon risultato. Cosa dici, Frank? Sì, è quasi un miracolo, a dire la verità, sì. Perché la premessa per ogni sport è l'incertezza su chi vincerà, e purtroppo... Se tu vai al cinema a vedere un thriller, all'ingresso dico guarda che... Esatto, più o meno il concetto è quello, quindi figuriamoci, riuscire a essere ancora, diciamo così, non dico competitivi, però vivi, malgrado questo, è già un grosso risultato. Però non c'è dubbio che il basket, come quasi tutte le discipline, diciamo così, non necessarie, perché siamo in tempi di crisi, è noto, e quindi anche il teatro, la lirica, la cultura, se ne parla da così tanto tempo, attraverso un momento difficile, perché prima bisogna pensare alle cose necessarie prima che alle cose voluttuarie, ma che il basket in particolare, comprese magari queste regole di cui parlava il nostro ascoltatore, certamente rivedibili e certamente migliorabili allo scopo di favorire chi ci rimette dei soldi nel basket, appunto, se ci fosse la possibilità con queste regole di metterle in modo da favorire, siamo tutti d'accordo, non c'è dubbio, ma che il problema sia molto vasto e cominci dalla base, cioè dalla scuola, cioè dai ragazzi che sono meno a giocare a basket rispetto a una volta, mi sembra che sia abbastanza fuori di dubbio. Saluto e ringrazio Pino Sacripanti, che Siena ha battuto non molto tempo fa con la sua Caserta. Ciao coach. Sì. Buongiorno a tutti. Ciao Pino. Volevo anche una tua sensazione sulla settimana senese. Beh, insomma, io credo che abbia fatto un grossissimo risultato, ribaltando un risultato, un pronostico che sembrava già finito, da grande squadra, da grande atteggiamento, con grande personalità. Probabilmente il più 50 del gara 1 ha tratto un po' in inganno la squadra avversaria, e ha dato grande motivazione a una squadra e a giocatori che hanno la personalità molto forte. Quindi adesso è ancora tutto aperto e speriamo tutti bene per il proseguo del cammino senese. E speriamo bene anche per il proseguo del cammino casertano e di quello trevigiano verso le Final Four di Eurocup che giocheremo in casa a Treviso. Perché non c'è solo Siena. La cosa piacevole è che comunque la pallacanestro italiana a primavera in Europa è ancora ampiamente rappresentata. Per voi sconfitta con l'ex Kazan, anacronistico pareggio a Göttingen, 66 pari per la Benetton Treviso, su questa porta delle Final Four che giocheremo in casa. Siete chiamati anche voi all'impresa, modello Siena, vincere in Russia, caro Pino. Sì, ma noi ci spiace molto, perché la partita qui giocata a Caserta poteva finire a nostro vantaggio con 4-5 punti, e invece quando siamo riusciti a mettere il becco avanti appunto di 5 lunghezze, poi non siamo stati così bravi nel chiudere la partita, e purtroppo negli ultimi minuti abbiamo lasciato loro un vantaggio. Però è anche vero che ce la siamo giocati alla pari contro una squadra decisamente più forte, io penso una delle squadre migliori che ci siano in Europa tra Eurolega e Eurocup, e quindi andiamo là senza nulla da perdere, speriamo di sfruttare questo concetto un po' più sereno, più leggero, ecco, non abbiamo niente da dimostrare e potremo proprio giocare con molta più leggerezza. Nello stesso tempo ci abbiamo giocato contro, abbiamo sbattuto il naso, abbiamo capito di che forza fisica, soprattutto nei lunghi, loro hanno centimetri, muscoli, talento, grande forza, cercheremo anche di mettere tatticamente a posto due o tre cose. Però Frank, scongiuri ammessi in tutte le forme possibili, tanto siamo in radio e non ci vede nessuno, però immagina arrivare all'ultimo atto con tre squadre italiane, due di qui, una di là. Sarebbe una resurrezione, un risorgimento, un rinascimento. È tanto, c'è la possibilità concreta. Caserta è il compito forse più difficile a questo punto della questione, anche perché tutti pensano Kazan non è il CSKA, è più forte del CSKA. Prima classifica. Esatto, ma voglio dire, noi abbiamo nell'immaginario nostro collettivo che è il CSKA la squadra più forte di Russia, invece è cambiata la gerarchia. Tant'è vero che il CSKA per riuscire a strappare lo scudetto è andata a prendersi Becirovic, ha cambiato l'allenatore, ha preso l'ex allenatore della Grecia, lì lituano di cui adesso mi sfugge il nome, Kaslauskas. Bravo. Voglio dire, probabilmente al mio amico Pino è capitata l'unica squadra di Eurolega che gioca in Eurocup, diciamo la verità. Sì, un po' di sfiga c'è, però siamo lì alla fine, quindi accettabile. Pino, questa è stata la settimana anche in cui abbiamo salutato e salutiamo, alzandoci in piedi sull'attenti, un grande personaggio della pallacanestro italiana, il Sciur Aldo Allievi, papà di Cantù e di tutti i canturini che sono passati dal pianello, a te compreso. Beh, sai, qui tocchi un tasto dolente, perché per me è stata una grande perdita. Sono nato con lui, sono cresciuto con lui, è stato per noi canturini e per noi del settore giovanile un esempio di vera scuola di vita. Ecco, quando ci si riempie la bocca di lo sport scuola di vita, a me molte volte viene da sorridere pensando ai vizi o di alcuni giocatori un po' superficiali, piuttosto che a qualche capriccio stupido. E invece con Sciur Aldo è stata una scuola di vita da cui tutti noi siamo usciti, tutti noi dei canturini, ecco, diciamo, siamo usciti proprio con una mentalità vera, dove bisognava andare bene a scuola, bisognava rispettare l'avversario, gli orari, gli allenamenti. Chi non rispettava queste cose veniva allontanato dal gruppo, dalla squadra, non si guardava in faccia a nessuno, c'era un discorso di lealtà e di sacrificio e di lavoro che lui ha inculcato a tutti noi. Ha ottenuto grandissimi successi con Cantù e io posso dire di aver iniziato con lui prima come giocatore nelle giovanili, pur scarso che fosse, però dove si sentiva già la sua presenza, e poi aver avuto la fortuna di aver lavorato con lui fino a quando poi la proprietà non è passata alla famiglia Polti, con la Serie A e con il settore giovanile, dove lui aveva sempre un occhio di riguardo e dove metteva sempre prima un discorso etico e morale rispetto a un discorso di vincere subito. Certo. Quindi per noi è stato veramente un papà per tutti, e un papà di quello che dava della severità, però della grande meritocrazia. Sì, non c'è dubbio. Tra l'altro, non so se avete notato la coincidenza, se n'è andato il 23 di marzo di Sciur Aldo Allievi, il giorno prima del compleanno di una Coppa dei Campioni. 24 marzo 83, Ford Cantù batte Billy Milano di Franco Casalini e Dan Peterson 69-68. Questa coincidenza mi mette un po' di pelle d'oca, devo dirvi la verità. Grazie Pino, buon lavoro. Grazie a voi, ciao, saluto a tutti, un abbraccione, arrivederci. Grazie a Pino Sacripanti. Ti leggo questo messaggio prima del traffico, Frank. Sì. Ti mandi saluti Guido Romagnoli, Juniores Billy anni 80 con Lamperti, Mazzoleni, Zanatta, Palazzi, eccetera, che ci sta ascoltando dalla Cina. Mamma mia, sì, me lo ricordo bene, lo saluto con affetto. Che in Cina ci sta ascoltando via web, grandissimo. Incredibile. Salutiamo Guido Romagnoli. Ci fermiamo per il traffico e poi torniamo per il gran finale. Riprendiamo con Franco Casalini e con Eugenio, che chiama dalla città del Palio e dei quarti di finale di Eurolega Siena. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Senta, io volevo introdurre un discorso sull'uso dei laser nei palazzetti, perché per esempio ad Atene per l'appunto ne fanno un grande uso. Io ricordo visto anche che ieri. Sì. Esatto. Io ricordo. Sì, non è la prima volta. Esatto. Io ricordo che anni addietro, quando per l'appunto la Menzana giocava con il Panathinaikos, ne fecero grandissimo uso per quasi tutto l'incontro. E ricordo anche che, poiché, voglio dire, qui siamo molto più civili in Italia, però insomma, quando poi si vedono queste cose ci viene voglia di rendere pan per cofaccia, e vennero a Siena e qualcuno provò ad usare un paio di laser, dopo 2 minuti minacciarono di sospendere l'incontro. Allora io dico, o i laser devono essere vietati dall'Eurolega a tutti, si può vietare solamente da una parte e dall'altra no. A me quello che mi infastidisce è stata la lunghezza con cui, diciamo, hanno usato questi laser. Tutto qui, volevo solamente far notare che a volte l'Eurolega usa veramente due pesi e due misure. Questo è vero, però se si può dare un piccolo segnale di capacità di stare al mondo, meglio darlo, no? A prescindere da che l'Eurolega lo vieti. Cioè, io se vado a Palazzetto e vedo uno che punta al laser, glielo strappo di mano Sai, quello lì che usa il laser è un cretino ed è un problema suo. No? E non ha certo contribuito. Ecco, diciamo che forse senza il laser avrebbe vinto di 46, ma in compenso ha perso di 17, quindi il laser di suo non cambia. Sai cos'è forse la sfortuna vera? Che il palazzetto del Pireo è talmente enorme e vasto che non riesci ad andarlo a beccare in tempo, quello lì che usa il laser, perché fa in tempo a scappare. Purtroppo Siena è più piccolino e allora lo vedi subito, lo individui subito, ma questo significa che comunque è sempre meglio dare lezioni di educazione civica, non scomodiamo la parolona civiltà, ma di educazione civica e sportiva, quindi lasciamo stare questi imbecilli. Anche se è stato un tempo, tu te lo ricordi bene, in cui andava a giocare in Grecia e volavano le dracme, quindi no, quello era il rischio di incolumità, quello era già diversa la cosa, ma anche allora valeva lo stesso discorso. Non c'è dubbio. Voglio farvi sentire una cosa. La levanta Prigioni il gol di Garbajosa, por aquí no, esta es ahora mi casa, busca il triple Prigioni, madre mia, qué triplazo de Prigioni. La dobla hacia afuera para Garbajosa, triple. El triple de Garbajosa. Este partido necesitaba a Garbajosa. ¿A quién sino? El triple importantísimo del hombre del partido. Sigue Prigioni que tira de tres. ¡Dentro! ¡Dentro! El triple de Prigioni. Juega el triple en McIntyre. ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Dentro! Dime que no estoy soñando. 6-5, 6-4, no lo sé cómo han quedado. ¡Qué partido, Dios! Meraviglioso. Málaga Real Madrid, giocata settimana scorsa. Prigioni da tre, Garbajosa da tre, Prigioni da tre, McIntyre da tre punti in controtempo. È raro, ma non c'è un altro sport al mondo che ti fa vivere un minuto così. Professor Flavio Tranquillo, un voto a questa telecronaca. Dimmi che lo sto sognando, è già nella Hall of Fame, però è incredibile come in praticamente pochi giorni, dopo tanti anni di basket, abbiamo visto due cose che non avevo mai visto: 4 triple in un minuto in una partita per il resto in cui si era segnato poco, e meno 48 in quella maniera e più 17 due giorni dopo. Sono due cose che io almeno personalmente non ho mai visto, magari Franco che ha 2-3 giorni più di me, sì, ma sono abbastanza sicuro anche lui ne aveva viste poche. Così. Beh, escludiamo intanto le triple che non c'erano negli anni in cui io seguivo il basket e tu eri più giovane. E non c'erano neanche i playoff, quindi siamo alla pari. Quindi siamo alla pari. Flavio, invece una tua lettura dal meno 48 alla vittoria di ieri. Come si risale da quello Stelvio? Ma secondo me sono più correlate e correlabili di quello che si potrebbe pensare. Io credo che Siena abbia, anche per cultura cittadina, posto che Hairston, magari Lavrinovic e Storrock non sono di una contrada, però comunque vivono a Siena e hanno il DNA della squadra, chi più chi meno ormai stampato dentro, anche quelli che sono al primo anno come Hairston. Siena viva abbastanza facilmente e meglio nella versione noi contro il mondo, noi nel bunker, gli altri fuori, che non senza. E quando perdi di 48, che secondo me è legato al fatto che quando giochi così tanto sul filo dell'esecuzione hai bisogno di essere al massimo, al top, e quando vedi che non ce n'hai magari ti vengono meno le energie e fai un botto come lo hanno fatto loro in gara 1, paradossalmente è stato proprio quel botto che li ha messi dentro il bunker. Tutti abbiamo pensato, vabbè, meno 48, la seconda se va bene la perdono di 15, e invece l'hanno vinta di 17 sui nervi. Adesso tutto sta a capire se dietro queste due apparenti aberrazioni c'è un discorso di fondo, e quello lo capiremo a Siena. Flavio, grazie, ci sentiamo domenica. Un abbraccio, grazie Flavio Tranquillo. Ciao. Io voglio chiedere invece al mio amico Franco Casalini, prima di salutarvi tutti quanti, come va a finire questo film a Barcellona, chi vediamo, chi troviamo, Frank? Le Final Four? Yeah. Ma sai, te l'ho detto prima, Fino a gara 1 si pensava, si poteva prevedere 3 spagnole su 4. Adesso possiamo prevedere una spagnola su 4 perché è inevitabile visto che c'è un derby spagnolo. Quindi ogni previsione. Chi vedi tra Real e Valencia? Onestamente il Valencia, perché mi sembra più grintoso, che abbia più garra di quanto non abbia il Real, che ha vissuto questo mese travagliato di allenatori, eccetera. E poi mi sembra che sul piano proprio della qualità umana, non dico tecnica, ma umana, abbia qualcosina in più, soprattutto questo Cook ritrasformato da Pesic in un giocatore formidabile. E saremo qui allora ad aspettare la fine di questo film tutti insieme venerdì prossimo. Intanto avremo alle spalle già gara 3 per tutte e gara 4 quelle che ci saranno per tutti. È una settimana interessante. Grazie Franco. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie Franco Casalini, Franco Piantanida in redazione, Filippo Aureggio in regia con lo sport. Ci sentiamo domani dalle 5 alle 6, poi domenica consueto orario 16:30, 19 e poi 20:30, 21 il basket. A domani.